9 in punto, la versione di Oscar. Oh, buongiorno, buon giovedì 15 dicembre, cominciamo con la solita solfa, diranno molti, ma del resto lo spread è a 490 anche questa mattina. Il tema del giorno è la connessione tra l'informazione e la politica, al centro alcune riflessioni intorno al tempismo, non credo, sospetto, meccanico come un orologio svizzero con cui la RAI si è mossa per sollevare dall'incarico il direttore del TG1 Augusto Minzolini, che è stato alla testa di una interpretazione molto discussa del suo ruolo alla guida della prima testata di informazione televisiva, e che rinviato a giudizio per peculato è messo a disposizione oggi del direttore generale, che in 40 giorni deve decidere un incarico monetariamente equipollente, ma lui, come altri colleghi prima di lui hanno deciso, fa la stessa cosa, cioè va dal giudice del lavoro. Dall'altra parte, ieri notizia clamorosa: Enrico Mentana, il direttorissimo del telegiornale di La Sette, forte di risultati assolutamente incontestabili dal punto di vista del 10%, 11% quando si partiva da 8-9 punti più bassi da che direttore nella sua testata, decide sorpresa di dimettersi, e lo fa perché il CDR della sua testata insieme al sindacato hanno fatto un esposto alla magistratura, perché non ha fatto leggere nel notiziario un comunicato di solidarietà ordinarissimo, non relativo a vicende della sua testata, ma alla solidarietà che la categoria dava allo sciopero dei poligrafici. E attesi due giorni dalla smentita, il direttore dice: adesso basta, io ne posso più di vivere in un paese in cui addirittura vado, i miei del CDR mi mandano al sindacato a fare l'esposto alla magistratura. Queste due vicende mi fanno interrogare e vi chiedono anche di intervenire sul tema. È casuale del tutto o in qualche maniera rispecchiano questo difficile rapporto che inizia anche a manifestarsi tra i partiti e il governo? Ci siamo interrogati ieri su questo rapporto, ma oggi a maggior ragione l'interrogativo è lo stesso, visto alla fine che hanno fatto ieri le norme sulla liberalizzazione, e leggendo che oggi ci sono parlamentari come per esempio il pidilino presidente della commissione finanze, Gianfranco Conte, e Chiara Moroni, che invece è dell'FLI ed è figlio di un farmacista, che si danno di gomito perché sono riusciti a far saltare per aria la norma sulla liberalizzazione, e Conte dice alla Moroni: li ho fregati, ridendo, e Moroni: i farmacisti ti daranno l'Oscar. Ecco, come sempre si capisce che i partiti nel governo non ci sono, però ridacchiano di fronte alle tantissime incertezze e anche ad alcuni errori marchiani che ci sono nella manovra del governo. Per esempio questa apertura a fisarmonica delle aliquote in cui si riprende e si riapre la regolarizzazione dello scudo, che ballano tra l'1% e l'1,2%, e poi diventano stabili nel 4 per 1000, come dire: abbiamo aperto un rubinetto e quindi lo Stato ridiscuterà tutto. Mi sembra un pessimo principio, e solo inseguire demagogia, e dimostra che poi i partiti, come sempre, devo dire, e anche questo governo, non hanno le idee chiare di dove andare a prendere le cose. Rapidissimi quattro flash prima di parlare con i nostri ospiti del punto del giorno, cioè l'informazione con la vicenda del TG1 e quello alla 7, qualche brevissimo flash dalla segna stampa europea. Semplicemente per dire che in Germania il partito liberale FDP è alla vigilia di un'esplosione praticamente. Il segretario generale Christian Lindner si è dimesso ieri, si aspettano, moltissimi giornali così scrivono, anche il Frankfurter Allgemeine scrivono di aspettarsi anche la dimissione del presidente Philipp Rösler. Si dovrebbero prendere tra oggi e domani i risultati del referendum interno intorno al meccanismo europeo di stabilità, e in parole parole povere sul Eurovertice dell'Immacolata, l'FDP è in vera e propria caduta libera, perché da una parte l'ala euroscettica che forte nel gruppo parlamentare non ha preso nel partito, e dall'altra il segretario e presidente sono visti come due persone che non esistono di fronte alla linea della Merkel. Si confermano le notizie intorno al negoziato riservato aperto tra i vertici di Commerzbank col CEO, con l'amministratore delegato Martin Blessing, riduttante per rifinire nelle mani del governo. C'è ancora un 25% del capitale pubblico, ma i giornali tedeschi dicono che anzi oltre a Commerzbank ci sarebbe anche un'altra Landesbanken pubblica che è in colloqui riservati per un salvataggio necessario, sempre più necessario di fronte alla crisi di liquidità, ed è per questo che il governo ha finanziato il braccio finanziario Sofin, con cui già è intervenuto nel post Lehman Brothers per i salvataggi bancari. La cosa interessante è invece lo sviluppo che riguarda la quota di finanziamento al Fondo Monetario, che potrebbe essere, diciamo così, l'intervento di emergenza verso il quale Italia e Spagna potrebbero incamminarsi, per essere concreti. Ieri la cosa particolarmente delicata è che Jens Widmann, riferiscono diversi giornali come la Süddeutsche Zeitung, cioè il presidente del Bundesbank, si era reso disponibile a una un'audizione parlamentare a porte chiuse sul tema. Conviene alla Germania rifinanziare la propria parte nazionale di quota straordinaria del Fondo Monetario, perché solo così appunto potremo dare l'idea che il Fondo Monetario è chiamato dall'Europa per fronteggiare il problema di qualche paese europeo che dovesse andare in emergenza. Tradotto significa appunto Italia e Spagna. Ma la Commissione Finanze del Bundestag, scrive Financial Times Deutschland, si è praticamente rifiutata di procedere a questa audizione, e il Financial Times Deutschland si interroga se sia per una questione di riservatezza più che comprensibile, perché altrimenti sarebbe stato come un incidente diplomatico nei confronti dell'Italia, oppure semplicemente perché i parlamentari, visto che la Gran Bretagna ha deciso di non procedere al finanziamento, sono scettici sulla popolarità che la Germania proceda a propria volta a finanziare il Fondo Monetario. Attenzione, perché se si arena la linea di liquidità straordinaria aggiuntiva al Fondo Monetario Internazionale, diventa più complicato per l'Italia aderire a questo schema di emergenza. Devo dirvi che io mi convinco sempre di più, esaminando i numeri della manovra e guardando le incertezze anche di questa manovra, e nella convinzione che il deterioramento economico andrà avanti e quindi bisognerà procedere ad altre manovre, io mi vado convincendo di una cosa che butto lì, ma ne riparleremo domani, cioè del fatto che dovrebbe convenire, secondo me, all'Italia essa per prima aprire un dialogo col Fondo Monetario, se non convenga aprire una linea di credito straordinario da 200-300 miliardi per risparmiare sulle prossime emissioni e per darsi un ulteriore velo di blindatura sulle misure che deve assumere, visto che il Parlamento non mi sembra troppo cooperativo e si dà di gomito quando il governo commette errori, e ne ha commessi già tanti. Capisco che molti di voi in ascolto possano pensare che io sono impazzito, visto che reputo che sia meglio andare in prima persona al Fondo Monetario piuttosto che aspettare il peggioramento e che sbarchino gli elicotteri del Fondo Monetario. Ne parleremo domani, intanto rifletteteci però, perché mi ha colpito che oggi sul Financial Times ci sia una nuova proposta di quelle avanzata da Paul Johnson, che è di quelle classicamente che però né coi trattati né con l'Eurovertice possono essere adottati. Andatelo a vedere, propone che per paesi Italia e Spagna ancora una volta si adotti una specie di misura europea finanziata dalla BCE come il programma temporaneo di liquidità garantito negli Stati Uniti dalla Federal Deposit Insurance Corporation. Qui è incompatibile col trattato, ma dà l'idea di come la gente, gli operatori di mercato, continuano a interrogarsi sul fatto che l'Italia abbia assolutamente bisogno, con questi spread, di non continuare a incorporarseli asta dopo asta, anche perché, datemi retta, ci sono 3-4 medie banche italiane che non sono più in condizioni di avere liquidità. Non voglio dire altro perché non faccio il terrorista, però la valutazione che do è che è necessario inventarsi anche da questo punto di vista probabilmente qualcosa di più che la mera ma necessaria garanzia pubblica alle obbligazioni, che è esteso di molto il collaterale che possono dare alle aste del fondo monetario, perché la loro liquidità è praticamente finita e quindi bisogna iniziare a interrogarsi sul fatto se Cassa Depositi su alcune banche italiane non debba fare altro, perché se leggete con attenzione gli allarmi quotidiani che l'ABI tutti i giorni oramai alimenta sulla stampa dicendo l'autorità europea ci sta spingendo al disastro, dovete capire che è perché appunto qualche medio istituto italiano la liquidità non sa più come procurarsela. Allora, fine dell'allarme di giornata per così dire, e passiamo invece alla vicenda TG1 e alla vicenda La 7 con gli ospiti. In questa prima parte della trasmissione sono con noi Massimo Bernardini, lo conoscete, il nostro vate per quello che riguarda l'informazione e la televisione, giornalista, conduttore di TV Talk su Rai 3. Buongiorno Massimo Bernardini. Buongiorno. Ieri sera l'ho vista seduta su un talk dove era quasi pronto a prendere la porta, ma simpaticamente, senza fare polemica. Poi ho visto che l'hanno tenuta incatenata la sedia invece. Comunque, poi è con noi Nicola Porro, torna con noi, vice direttore del giornale, co-conduttore di In Onda sulla 7 con Telese. Buongiorno Nicola Porro. Buongiorno. Allora, comincerei proprio da Nicola, perché vado controcorrente, ma dico, io conosco Augusto Minzolini da quando ero, da prima che diventassi portavoce del PRI, sono stato portavoce del PRI nel 87-94, pensate quanti anni fa era. Dico senza problemi che all'epoca era un collega strepitoso, perché era simpatico, scanzonato, fuori dalla misura, fuori dalle regole ingessate dei pastoni politici. Paolo Miele, direttore della Stampa, si inventò esattamente il via libera ad Augusto, che non stava nelle misure, nei posti, nelle conferenze stampa, bucava, parlava con gli autisti, parlava con le segretarie, le seduceva ovviamente perché questa era una delle sue attività predilezze, si imbucava dietro i muri, le porte, ascoltava tutto di ciò che non andava ascoltato e soprattutto ricostruiva la politica totalmente priva di ogni ingessatura voluta dai politici. È stato un grande smantellatore, come Paolo Mieli, sia alla Stampa che poi nella sua prima direzione al Corriere, di tutto ciò che era il criterio obbligato nella prima Repubblica, con cui bisognava scrivere di politica come volevano i politici. Augusto è stato un grande abbattitore di questo cliché e io questo glielo riconoscerò sempre. Come direttore del TG1 sapete quali sono state le polemiche, di aver fatto l'informazione di regime, sempre schierata spada in mano a favore di Silvio Berlusconi, dai casi giudiziari alla politica. Ma la domanda è: questa vicenda del peculato appare lontano un chilometro, come da una parte se ne liberano in Rai essendo gli stessi di prima, con una chiara maggioranza quella di prima, e se ne liberano quando la condizione politica è cambiata, dall'altra, io non so come la pensate, i 65.000 euro sono tanti, però lui dice che il direttore precedente faceva le stesse cose e i nomi la Rai al direttore precedente non gli chiedeva. Vedremo come si pronuncerà il giudice del lavoro. La vicenda di Mentana, io invece su quella ho nessun dubbio, secondo me Enrico Mentana ha ragione e ha torto chi lo ha denunciato. Vedremo il braccio di ferro e vedremo anche se magari Mentana va al TG1. Lui dice di no e garantisce, io ci credo. Invece l'opinione di Nicola Porro sulle due vicende qual è? Ma sono vicende un po' diverse. Bisognerebbe partire dal presupposto che i giornalisti che scrivono di politici, di corporazioni, di liberalizzazioni sono una corporazione molto, molto disunita al suo interno, ma molto forte nel considerarsi intoccabile. Hanno un sindacato, sto partendo ovviamente dalla questione Mentana, hanno un sindacato bulgaro e hanno un sindacato, ad esempio, che nei confronti di Mentana ha usato, secondo me, delle richieste da, non so, da Soviet degli anni 70. Mentana ha giustamente detto: io do le notizie, non do i comunicati dei sindacati tu cura, anche se è il sindacato dei giornalisti, a cui, ripeto, non vi è un obbligo di iscrizione. E quindi, insomma, Mentana ha fatto esattamente quello che avrebbe fatto, quello che ha fatto fino ad oggi per far arrivare il suo telegiornale dal 3% al 9%, cioè fare una selezione delle notizie che gli interessa, che interessa, avrebbero potuto interessare il pubblico. Quindi ha fatto benissimo fare quello che ha fatto. Però ritorniamo alla questione precedente, cioè che noi siamo una categoria molto strana, come tutte le categorie, non c'è una peculiarità, però quando le categorie si identificano in un ordine e si sentono protette o e stanno sotto questa chioccetta dell'ordine, alla fine ragionano come se non esistesse il mondo intorno a loro. Quindi non esiste il mondo intorno a Mentana, esiste solo quello dei giornalisti che pretendono un comunicato sindacale venga dato nell'edizione di maggior successo di Mentana. Questa è una cosa da pazzi, e quasi più da pazzi questa che la denuncia per comportamento antisindacale, vorrei essere paradossale, perché era è come chiedere a Giannino di iniziare la sua trasmissione con un comunicato dell'ultima categoria a cui Giannino forse una volta si è scritto, neanche tale, e Giannino fa la sua trasmissione come vuole, come crede, soprattutto al servizio del suo pubblico, che è il suo vero dante causa, e questo purtroppo i giornalisti qualche volta non lo capiscono. Ma è altrettanto assurda la questione di Minzolini, perché Minzolini, a parte tutte le caratteristiche di cui parlavi tu, Oscar, perché è stato fino a poco tempo fa, cioè fino a essere toccato dal TG1, uno dei maestri di quel giornalismo, come hai detto bene tu, che ha disarticolato il modo consueto di fare giornalismo, cioè raccontandosi e raccontando fuori dagli schemi. E Minzolini è il TG1, il TG1 è sempre stato quella roba là, un telegiornale governativo, un telegiornale gestito per 40 anni dalla Democrazia Cristiana, come il TG2 invece dalle componenti laiche, come il TG3 dalla componente prima comunista e poi di sinistra. Ci piace questo? Assolutamente no, però mi viene veramente da ridere che oggi ci sia questa idea moralistica di dire ma Minzolini schierato il telegiornale di regime. E cos'è stato negli ultimi 40 anni il telegiornale? E cos'è stato con i precedenti di Minzolini? E poi l'ultima questione fondamentale, qui c'è una incongruenza, cioè se Minzolini doveva andar via perché perdeva ascolti e perché faceva un brutto telegiornale, l'editore lo mandava via per questi motivi. Ma l'idea di mandar via Minzolini perché è stato rinviato a giudizio e non per le sue qualità dà il senso dell'ipocrisia assoluta di questo paese. Se Porro o Giannino svolgono male il loro lavoro, l'editore ha tutto il diritto di cacciarli via, posto che sia io sia lui, tutti e due siamo immediatamente licenziabili ad nutum, anzi forse Oscar tu non sei neanche assunto, non so esattamente non sono assunto. Sì, quindi l'editore, se tu fai male il tuo lavoro, ti manda via immediatamente. Un vice direttore, come sono io, è licenziabile ad nutum dal proprio editore, quindi questo fa parte del mercato, è un mercatista come sono io, lo accetta. Ma l'idea che mandino via Giannino o Porro per una scusa, perché tale è fino a prova contraria, perché non è stato condannato e perché quella procedura della carta di credito è stata utilizzata da tutti quanti i direttori, allora questo dà l'idea di un'ipocrisia di fondo anche della nostra categoria. E poi bisogna stare molto attenti, perché se si utilizza questo strumento per mandar via un direttore, io mi chiedo se fosse stata fatta la stessa cosa nei confronti di un altro direttore, non si sarebbe gridato, sto parlando per paradossi, alla, come posso dire, alla mancanza di libertà di stampa, Minzolini dice questo era tutto quanto deciso col consiglio di amministrazione, eravamo intesi, i precedenti direttori spendevano in albergo esattamente cifre molto simili. Quindi parliamoci chiaro, il TG1 è un TG di regime, se vogliamo usare i termini di oggi, da sempre. L'editore abbia il coraggio di mandar via i suoi direttori, perché fanno parte gli editori del TG1 del regime, e quindi quando cambia una maggioranza come è cambiata ora, abbiano il coraggio di dire le cose come stanno. Siamo abituati a tutto ciò perché siamo un paese per cui cambiano i direttori dei telegiornali con i cambi delle maggioranze. Questo secondo me si deve dire, per non fare ipocrisia. Non c'entra libertà di stampa, non c'entrano gli errori di Minzolini, non c'entra il fatto che i suoi editoriali fossero filo berlusconiani come erano filo berlusconiani, è sempre avvenuto al TG1. Ci piace questo sistema? No, ma allora non ci prendiamo in giro, privatizziamola la RAI, cediamola, facciamo finta che non esista più il servizio pubblico, ma non prendiamocela con Minzolini. Scusami il paradosso, ma è quello che penso. No, era esattamente per sentire quello che pensavi tu. Sentiremo adesso Bernardini. Richiamo due cifre, i numeri contestati ad Augusto Minzolini sono che con la sua direzione si è perso nell'ascolto medio il TG1 quasi 6 punti, scendendo al 25,8% rispetto al 30,8%. quota, quindi 5 punti del TG1 di Clemente Mimun, era il 31,3% del TG1 di Gianni Riotta. Mizzolini replica che questo col passaggio al digitale c'è una dispersione di canali, quindi in qualche misura è fisiologico, e lui dice: io comunque ho perso solo 8 volte nel confronto diretto con il telegiornale della 5, 8 volte in più di 2 anni. Naturalmente la questione è quella politica, perché quando Aldo Grasso ha scritto era il più brutto telegiornale della storia di tutta la RAI, quello di Mizzolini, l'addio di Aldo Grasso è stato un addio a cui molti hanno battuto le mani per la linea politica della direzione di Mizzolini, che oggi dichiara: sono stato tradito. Il tradimento è il voto di un consigliere Gorla del centrodestra, accusato di avere parenti alla RAI nella fiction e quindi di doversi allineare al cambio di vento politico che Nicola Porro ha appena descritto. Ora andiamo in pubblicità e poi ricominciamo con Massimo Bernardini. Eccoci tornati qua in studio e ricominciamo con Massimo Bernardini, conduttore di TV Talk. Volevo sapere la sua opinione su vere ragioni, per così dire, per cui la RAI, con questo tempismo abbastanza sospetto, liquida colui che Aldo Grasso ha detto il peggior direttore del TG1 della storia della RAI. La sua difesa l'ho richiamata prima, è un caso, una necessità, e il TG1 è sempre stato questo, lo specchio della politica pro tempore, dice Porro. E sul giudizio di Mentana, io però la pensiamo visto allo stesso modo. Enrico non ha affatto sbagliato, come dicono alcuni, a sovrareagire, per così dire. Con la sua sovrareazione pone il problema di questa arcaica impostazione dei poteri decidere del sindacato in questa casta giornalistica. Ma Bernardini come la pensa? Allora, diciamo subito che innanzitutto il caso Mentana forse c'è uno spiraglio, perché ha appena parlato anche in TV lui, dicendo che insomma pare che il suo rapporto con la redazione trovi una strada di recupero, quindi io spero che il suo cammino alla 7 prosegua per il bene di tutti, direi, anche proprio del quadro dell'informazione. Ma io trovo che queste però sono due vicende profondamente sgradevoli, nel senso che chiudere due esperienze come quelle di Mizzolini e Mentana su questioni sostanzialmente laterali ci dicono che il nostro sistema mediatico e forse anche il nostro paese sono un po' senza coraggio, senza carattere. Voglio dire, partiamo da Mizzolini. Allora, giustamente con Porro prima hai ricordato quanto fosse il miglior retroscenista della politica italiana, no? Voglio dire, l'abbiamo letto per anni proprio perché ci spiegava cosa stava dietro alle maschere della politica, Mizzolini. Allora, a me piacere, io sogno un paese, un sistema mediatico in cui si dica: Mizzolini lo mandiamo a casa perché ci aveva promesso un altro racconto della politica nel TG1, magari anche mettendo in crisi gli ascolti del TG1, esagero, e invece non l'ha fatto. Allora, siccome non l'ha fatto, Mizzolini ci ha traditi. A me piacerebbe un paese come questo. Invece, alla fine, sono questi due aspetti. Uno, quello del peculato, insomma, su cui francamente anche per il tipo di rapporto, non da assunto ma da collaboratore della RAI, ho con questa azienda, mi pare molto delicato e complicata la faccenda, forse era una strada anche obbligata dal punto di vista tecnico, non ho studiato le carte, solo per dire, però insomma quell'aspetto lì, però mi pare molto molto povera, che per far fuori, fra virgolette, Mizzolini, anche nel Consiglio di amministrazione si sia raggiunto l'accordo attraverso quella strada, che francamente mi pare molto molto, appunto, ripeto, quella laterale, non quella centrale. Per esempio, l'altro tema è quello degli ascolti. Allora, come si fa comunque? Proviamo a ragionare per un attimo. In un paese come il nostro, in cui il telegiornale della prima rete nazionale del servizio pubblico è comunque il più grande punto di comunicazione, il più largo, italiano, come si fa a avere innanzitutto, imputare a un direttore gli ascolti? Allora, io voglio che il direttore di TG1 faccia un bellissimo telegiornale. Ah, questo è interessante, perché invece gli ascolti sono una delle classiche obiezioni e armi di coloro che, per non dire ti stava sulle palle Mizzolini per come faceva il telegiornale, dicono però ha fatto per gli ascolti. Tu dici al contrario, al direttore del TG1 non bisogna chiedere questo. Ma secondo me, Giannino, se Mizzolini avesse fatto un telegiornale nuovo, diverso, con un racconto della politica totalmente diverso, e gli ascolti fossero scesi, io voglio vedere chi avrebbe attaccato Minzolini. Corretto. Allora, siccome lui ha fatto una scelta di campo molto dura, secondo me anche molto inesperta, posso dire, nel senso che secondo me non si è dato un tempo, non si è dato, come dire, anche nel suo schierarsi, secondo me è stato un po' velleitario, francamente, ma lo dico tecnicamente, non politicamente, ma tecnicamente. Cioè si è scoperto troppo fresco, non so come dire, ci sono, come dire, il mestiere di giornalista e soprattutto quando metti la tua faccia, ma soprattutto il mestiere di giornalista televisivo, a cui secondo me lui non è per niente avvezzo. Esatto, e quindi lui è, esatto, mentre l'eccesso di misura sulla carta stampata, quando si è fondato un genere come nel suo caso è un tratto identitario caratteristico, per così dire, nel il diretto, esatto, il direttore del TG1 piede. Diventa un'altra cosa, esatto. Diventa un arrembaggio però, gratuito. Questo è un ragionamento, come dire, inesperto Minzolini. Questo è un errore vero, secondo me, così come c'erano degli errori nell'impaginazione, come dire, ho visto molti velleitarismi nella gestione del telegiornale, però è anche passato pochissimo tempo. Cioè il problema è che lui si è come esasperato tutto, però partire dagli ascolti come prima cosa, secondo me è veramente la follia italiana. Però la domanda che ti faccio è, nella storia della RAI abbiamo mai visto, io sono stato recentemente assolto perché ero portato sul banco degli accusati dalla RAI perché avevo scritto che era lottizzata e loro ci hanno provato, mi hanno assolto, adesso il pubblico ministero che non avevo impugnato è stato convinto da una parte civile a reimpugnare, vabbè, mi farò anche questo nuovo grado di giudizio, ma detto questo, è mai possibile secondo te davvero concretamente attendersi che il RAI possa un consiglio di amministrazione, questo è lo stesso di prima, la stessa maggioranza ha cambiato così radicalmente idea su la, diciamo, il conduttore, il direttore di punta della che esprimeva la sua stessa maggioranza, ma già, organi così possono mai chiedere davvero e consentire al direttore di fare problema, il TG che dici tu? Io credo di no. Ce lo siamo detti altre volte, è il problema della governance, non regge questa governance per la RAI, purtroppo, lo dico da cittadino, evidentemente, non da collaboratore della RAI, è un problema di fondo, cioè no, bisogna trovare un'altra strada, cioè la strada della BBC, cioè in qualche modo il management della RAI deve essere scelto dalla politica, ma poi lasciato lavorare. Non è possibile che questi dirigenti debbano sempre continuamente, come dire, avere come interlocutore, poi diciamoci la verità, sono bravissime persone quelle nel consiglio di amministrazione, ma quanti lì dentro capiscono in televisione? Questo sembra uno pseudo problema, ma invece è il problema, perché nelle altre grandi televisioni pubbliche in realtà non va così, cioè alla fine la politica nomina una governance e poi la governance lavora, basta, lavora e poi non vi va bene, smontatela, ma lasciatela lavorare, invece così è complicatissimo, cioè e appunto, e si arriva a queste conclusioni che secondo me sono veramente sgradevolissime, cioè non si affronta il nocciolo della questione, che secondo me era il TG1 di Minzolini, e noi TG1 questo affronteremo, com'era il TG1 di Minzolini, questo è il punto, neanche innanzitutto l'ascolto, ma innanzitutto la qualità di questo telegiornale, cioè vogliamo dirci che il TG1 ha bisogno di rinnovarsi, sì o no? Io sì. Dico di sì, anch'io. Questo problema è aperto, non è mica cambiato, ma la politica in che abbiamo visto nell'attaccare o nel difendere Minzolini ha mai affrontato questo tema? No, ti ringrazio perché problema. Era esattamente questo, dopo i paradossi messi in luce da Nicola Porro, però dal punto di vista della qualità e della civiltà di come si dovrebbe giudicare un servizio pubblico, secondo me Massimo Bernardini c'entra la questione, come quasi sempre, ma la c'entra perché prioritario dovrebbe essere quello, e che io non ho fiducia che in RAI si possa fare comunque, però il problema è che quello dovrebbe essere ciò che noi paganti, per così dire, dovremmo chiedere al servizio pubblico, perché altrimenti, cioè, un editore può fare quello che vuole, lo può cacciare un direttore se spende troppo, se va in albergo e spende troppo oppure no, il servizio pubblico dovrebbe insomma avere un criterio almeno sul quale ogni tanto riuscire a fare quello che Bernardini ci ha appena detto. Ringrazio anche Massimo Bernardini, passo a una terza opinione che è quella di Antonio Di Pollina, che è il critico televisivo della Repubblica, e anche lui propongo di darci la sua opinione intorno a queste due vicende diverse, ma secondo me non casualmente coincidenti con una fase in cui si vede che i partiti non stanno al governo ma in realtà lo indeboliscono, e quindi la politica è alla ricerca classicamente di equilibri, alla RAI questa è classica cosa, ci si riallinea anche se il consiglio di amministrazione è lo stesso, quindi la vicenda Minzolini da una parte, ma anche delle considerazioni sulla vicenda di Mentana, perché Mentana, che alcuni dicevano ha sovrareagito, secondo me non ha sovrareagito affatto, lì è un eccesso del rito giornalistico della cassa dei giornalisti. Come la pensa Di Pollina però? Su Mentana o su Minzolini? Ma cominciamo da Minzolini. cominciamo da Mizzolini. Ma il discorso degli ascolti che sentivo fare prima, che non bisogna giudicare sugli ascolti, è sempre molto scivoloso, perché io ci sto a dire non valutiamolo dagli ascolti che calano, però ci starei se in caso contrario, se Mizzolini avesse fatto un TG ultra di successo, si sarebbe detto vabbè sì, ci sono stati i buoni ascolti, invece ci sarebbero stati comunicati trionfali e si sarebbe detto che era tutto perfetto. Quindi la valutazione sugli ascolti o vale sempre o non vale mai, e quindi se diventa un trionfo, se va bene, poi bisogna fare anche delle valutazioni di un certo tipo quando, invece non vanno bene, e bisogna un minimo tenerne conto. Personalmente, se posso dare una cosa personale, ho ritenuto chiusa l'esperienza di Mizzolini quando, mi pare un mesetto fa, ho letto sulla stampa, mi pare, la lettera di un lettore che diceva sta davvero cambiando qualcosa. La mia vicina di casa, che è una vecchietta sorda, e da 20 anni io alle 8 sento la sigla del TG1, ieri sera ho sentito ad alto volume la sigla del TG di Mentana. Ecco, simbolicamente, che è una stupidaggine, ma dà un po' il senso. Io in quel momento ho pensato, ecco, adesso sì che qualcuno inizia a preoccuparsi davvero, perché se si va a perdere la signora anziana che è sorda, che da 20 anni guarda il TG1, vuol dire che sta davvero succedendo qualcosa. Dopodiché il discorso del TG1 e della RAI, avete detto cose assolutamente condivisibili. Io ormai pluriennale esperienza in queste cose, e di togliere il gioco della politica dalla RAI è sempre andata che cioè questa cosa qui somiglia un po' ai tagli alla casta. Chi li deve fare? Chi lo deve fare? Sono decenni che io vedo che chi va al potere e a quel punto dovrebbe mettere mano nella RAI e liberarla un po' dai partiti, sotto traccia fa passare il messaggio: ma scusate, perché bisogna farlo proprio adesso che tocca a noi? Sì, e quindi non succede mai, serve altro che una rivoluzione copernicana. Posso chiederti, prima di passare a qualche considerazione su Mentana, se non abbiamo una responsabilità, adesso io dico generalizzo noi tutti, ovviamente è sempre un errore generalizzare, dico il sistema dell'informazione prevalente, che a propria volta però ha proposto, finché c'era Berlusca al suo posto, la polarizzazione molto tribale, perché poi alla fine la gente, a furia di vedersi proposto questo criterio interpretativo, gode o plaude al Mizzolini iperschierato, oppure batte le mani alla sua caduta, unicamente guardando al criterio a chi è vicino o a chi è lontano politicamente, non tanto come faceva il TG1, qual era la qualità, faceva retroscena o meno, come diceva invece prima Bernardini. Tu che dici? Sì, questo ci sta, e vale anche per molto altro che in televisione che non sia il TG1. Grosso modo lo slogan è sempre stato: il TG1 deve essere governativo, e poi c'è modo e modo di essere governativi. Il modo mizzoliniano, che poi ha portato a far sì che il TG1 diventasse una delle cose più satireggiate come per esempio veniva gestita la seconda parte, per i servizi di colore di un certo tipo e così via, è probabilmente quel modo e modo visto dal punto di vista Mizzolini non ha assolutamente funzionato. Non so davvero a chi potesse piacere tanto, se non a un pubblico assolutamente abituato a non cambiare canale all'ora di cena mentre guarda il TG1, quel modo complessivo di gestire le notizie, cioè sorbirsi l'ultra filo governativo all'inizio e poi il disimpegno fatto di cose che erano al di là del futile, mentre la gente invece appunto la sera a cena vedeva la tavola imbandita sempre più vuota, per dare senso di... Allora ti fermo un secondo perché abbiamo il minuto sull'informazione stradale, poi riprendiamo con Di Pollina sul caso Mentana. E mentre riparte il nostro The End dei Doors, torniamo con Di Pollina a sentire la sua opinione invece sulle dimissioni di Mentana. Gesto eccessivo oppure giusta denuncia degli eccessi di casta? Ma direi mi interessa molto di più in questo caso la tattica e la strategia di Mentana, perché vabbè, adesso sembra che le cose debbano andare a posto, ma lui ha messo a segno un punto decisamente forte, e lo si è visto ieri nel pomeriggio quando pochi minuti dopo il pronunciamento forte di Mentana medesimo, i suoi giornalisti, il CDR in questione, dice: no, calma, noi non abbiamo fatto nessuna denuncia, è un problema dell'associazione stampa romana. In quel momento, se stessimo giocando a scacchi, la mossa precedente di Mentana diventava quella con tre punti esclamativi, da quanto era diventata efficace, portando a far sì che i suoi stessi giornalisti a quel punto prendessero le distanze quasi da quello che stava succedendo, e lì ha stravinto. Quindi da questo punto di vista la cosa mi è sembrata abbastanza divertente. Poi Mentana ha sfruttato la cosa nell'edizione serale del TG, facendo ancora di più che nelle altre sere il suo show, tra virgolette, perché il TG di Mentana è un one man show, e tra poco scopriremo per esempio che gli ascolti saranno stati molto più alti del solito. Detto questo, non mi viene da fare più che considerazioni davvero tecniche e oggettive. Il TG di Mentana è il classico brigantino dei pirati che dà l'assalto ai galeoni, e sul brigantino dei pirati le regole, diciamo, vogliamo dire che più o meno si improvvisano, o quantomeno sono demandate a un rapporto abbastanza diverso tra il capo dei pirati insomma, il capitano Kidd non è un ufficiale di marina regolare, insomma, per così dire. Esattamente, e se vai da lui e gli chiedi le razioni di cibo nel cielo, fan probabilmente ti prende a schiaffi. Beh, devo dire la verità, mi piace questa definizione di Antonio Di Polita, perché è coerente esattamente alla tipologia di telegiornale, cioè c'è una coerenza tra conduzione, stile di reazione, risse sulla tolda, ma anche risultati, perché poi i galeoni sono pesanti, vanno a fondo e le guerre le perdono, come hanno imparato gli spagnoli con la loro pesante armada. Sentiamo Massimo dalla provincia di Chieti. Niente, è caduto tutto, mi stanno levando tutte le telefonate, non c'è più niente da fare. Allora posso fare un esempio a chi ascolta di come io esercito l'autocritica su me stesso, e a volte lo faccio anche nei confronti dei posti dove sto. Vi dirò che, siccome vi ho ripetuto in questi giorni che non mi ritrovo in molta dell'improvvisazione con cui il governo, senza aver riordinato il sistema fiscale, senza aver abbattuto il debito pubblico con le dismissioni per 20-25 pool di mattone, cose che secondo me sono fondamentali per evitare di andare in bocca al fondo monetario, domani parleremo se non ci convenga andare, sono molto critico su tutte le norme fiscali e su questa riapertura fisarmonica, per esempio, dello scudo fiscale, che era un patto fatto con gli italiani per farli rientrare, e che riaperto così con aliquote che varieranno nei prossimi anni ha, secondo me, con certezza portato la gente ad andarsene all'estero. Oggi ho trovato a pagina 3 un titolo del Sole 24 Ore: 2 anni per stanare i furbi del condono, e mi sono detto: mi devo dimettere, me ne devo andare? No, io devo rispettare che i colleghi del giornale, che vende molto in più con il direttore attuale Roberto Napolitano, pensano che siano i furbi del condono che vanno stanati, e io continuerò a pensare che lo Stato, così facendo, si è rimangiato la parola, fa una figura infame, spinge la gente a non regolarizzare più niente, alla gente ha sicuramente ripreso la strada dell'estero mentre le banche sono a corto di liquidità. Sono due opinioni opposte, radicalmente opposte, culturalmente opposte. La mia è minoritaria, iperliberale, di uno Stato che mantiene la parola e fa equilibrio con meno Stato e meno spese e meno tasse. E i colleghi del Sole, e hanno ragione loro, pensano invece che io sono tra i furbi che vanno stanati, e il mondo va così. Bene, a domani. Intanto linea al giornale radio. 9 in punto.